greatest of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Don't play with me. I'm being serious. I'm giving you a serious answer. Was she at the dinner? Yes. She's the social secretary. She had the primary secretary. She had the primary sponsor for running the dinner. I'm going to get back to weightier topics like 98,000 men and women in Afghanistan. E insomma, il messaggio di Robert Gibbs, il portavoce della Casa Bianca, in una a dir poco accalorata, un accalorato scambio di battute con i giornalisti, è quello che spesso e volentieri poi sentiamo fare anche, no, dalle parti nostre, quando qualche rappresentante del governo o dell'opposizione parla magari ai microfoni dei media. Abbassiamo i toni. Anche Robert Gibbs lo dice, veniva in un certo senso insidiato, pedinato, no? Pressato da questa giornalista attorno alla famosa storia degli intrusi alla Casa Bianca. A un certo punto gli ho detto: ma per favore possiamo tornare a parlare dei 98.000 americani in Afghanistan e di questioni più serie? Quello che è certo è che la Casa Bianca non è più la casa incantata che era alcuni mesi or sono. Ormai anche i giornalisti che vi lavorano continuativamente hanno preso un atteggiamento diverso, certamente più aggressivo nei confronti della presidenza e dell'amministrazione più in genere. Ricorre questo pezzetto di televisione di cui avete appena ascoltato l'audio nella mattinata televisiva degli americani, come ricorrono gli alert, ovvero le notizie di una notizia che sta per arrivare. Allarmi, attenzione, tenete d'occhio i monitor, perché da un momento all'altro potrebbe spuntare la notizia riguardante, come diceva poco fa Fox News, il destino di Amanda Knox, il cui giudizio nel processo di Perugia è atteso per oggi, questa sera. C'è grandissima attenzione in America attorno a questa storia, c'è grandissima attenzione soprattutto riguardo al trattamento che verrà riservato alla ragazza americana. Come già ieri vi abbiamo raccontato, in un certo senso si sono un po' alzate delle palizzate patriottiche a difendere Amanda e il suo futuro, legate a una visione della giustizia particolarmente americana, legate comunque al concetto di prova. Viene ribadito che, per quanto gli indizi, le supposizioni, le costruzioni possano contare, se non ci sono prove, Amanda va rimandata in America immediatamente. Ormai si sono un po' rotte da questo punto di vista le barriere della diplomazia, gli americani stanno parlando molto chiaro e vedremo quale sarà invece l'esito, la decisione della giuria. Poi ci sono varie notizie che arrivano riguardanti naturalmente il discorso fatto da Obama sull'Afghanistan. Obama sta provando a sondare gli umori, anche scendendo, come si dice, per strada, incontrando varie componenti sociali americane. Pare che per ora riceva accoglienze piuttosto calorose. Certamente caloroso è stato il ringraziamento rivolto da Hillary Clinton all'Italia per i 1.000 soldati in più che andranno a incrementare il nostro contingente in Afghanistan. È ormai ufficiale la notizia che anche quello americano, inizialmente annunciato da Obama a quota 30.000, arriverà in realtà a 33.000, perché 7.000 dovrebbero essere i soldati NATO impegnati in questo nuovo sforzo per comporre quel famoso totale di 40.000, che è esattamente la cifra che il generale McChrystal richiese alcuni mesi fa, allorché si cominciò a parlare di incremento di presenza militare in Afghanistan. Quindi in tutto e per tutto è stato accontentato nelle sue richieste. Vedremo le risultanze che ne sortiranno. Si avvicina la settimana in cui l'ambiente prenderà il centro del palcoscenico globale, tutti i riflettori saranno naturalmente su Copenaghen. Copenaghen sul vertice. Attorno a questo vertice si stanno muovendo anche altri potenti che probabilmente parteciperanno, ma che hanno qualcosa a dire sulla propria area di influenza. Nella fattispecie Arnold Schwarzenegger, governatore della California, ha fatto ieri una conferenza stampa, come dire, che oltre a risuonare i temi dell'ambiente a cui lui è particolarmente sensibile e che verranno discussi in Danimarca nei prossimi giorni, nelle due settimane che seguiranno, ha anche dato un allarme così molto sensazionalista riguardo a quello che sarebbe l'immediato futuro della California. Sentite. The tour that we are about to take is designed to promote awareness of the challenges that we face from climate change and the kind of things that we can do together to overcome those challenges. In California In sostanza, in California, ha spiegato agli un po' attoniti giornalisti Schwarzenegger, il riscaldamento terrestre avrà degli effetti particolarmente violenti. Innalzamento del livello delle acque, dei mari, probabilmente si può ipotizzare addirittura un innalzamento di 1,5 metri. Questo vuol dire che perlomeno 500,000 di californiani, per dove vivono, per dove abitano, oggi finirebbero sott'acqua. E che addirittura tutta la costa della California andrebbe letteralmente ridisegnata. Tra l'altro ha tenuto questa conferenza stampa per essere ancora più visibile nel suo effetto Schwarzenegger alla Treasure Island, una isola appena fuori dalle coste californiane, un'isola che sarebbe completamente sommersa e non esisterebbe più, e quindi tutto ciò che vedete ora, fra un secolo agli abitanti che abiteranno questa terra tra un secolo, non sarà più noto. Un articolo molto interessante uscito oggi su New Republic ha rimandato, tra l'altro, ha riassunto, no, le sfide di questo incontro di Copenaghen, che sostiene l'articolo stesso, in due settimane metterà molti temi sul tavolo, ma difficilmente raggiungerà dei risultati, tant'è vero che già si guarda a Mexico City 2010, prossima sede del prossimo vertice. Sostiene questo articolo che tre sono comunque le risultanze su cui bisogna lavorare, bisogna impegnarsi seriamente. Sarebbe l'impegno a ridurre le emissioni di gas pericolosi, sperando che gli Stati Uniti e la Cina rispettino quelle cifre che hanno annunciato di recente. Vi ricordo, gli Stati Uniti si sono impegnati a ridurre del 17% o discendere del 17% sotto i livelli del 2005 entro il 2020, ma in pochi ci credono che ce la faranno. Il secondo punto sarà quello di fissare gli standard di verifica di questi tagli, ovvero come si controlleranno che questi tagli, come si controllerà che questi tagli verranno realmente messi in opera, a chi sarà affidata il controllo, lo scrutinio di questa operazione. E terzo e indispensabile punto, il finanziamento dei tagli alle emissioni nei paesi poveri, una questione di cui naturalmente l'Occidente più ricco dovrà farsi carico. Primo piano. I want to wish all of you a very Merry Christmas. May you go out with joy and be led forth in peace. And now to the serious business of pressing the button and lighting this beautiful tree. So, insomma, alla fine l'ha fatto. Ieri hanno acceso l'albero. Questo è Barack Obama nella sua versione più spiritosa, poi quella a cui francamente spesso non resistiamo. Convoca la famiglia tecnologicamente più attrezzata di lui per schiacciare il bottone con cui si è acceso il bellissimo albero di Natale. Ecco, contro la rovescia, sentiamo. 2-1 ha annunciato che l'albero è acceso. Insomma, Natale si avvicina ufficialmente per tutte le famiglie del mondo, compresa quella del presidente. Trapela che la prima famiglia d'America passerà il Natale alle Hawaii. Beati loro, insomma, li seguono, vengono seguiti dai segni della nostra, di tutta la nostra invidia. Passerà naturalmente prima dell'Europa per partecipare una, probabilmente due volte al vertice di Copenaghen il presidente Obama, e per martedì ha in programma un discorso che metteremo sotto osservazione, perché tornerà a parlare, probabilmente stenderà una specie di consuntivo attorno alla economia americana. I could feel at the time there was Buongiorno America. I take my job very seriously, and when I was governor, which I was for 10.5 years, I saw a thousand. Lo sapete, il venerdì ormai è un'abitudine, ci occupiamo anche di industria dello spettacolo e della cultura, boom boom boom, americana, insomma di tutto quel insieme che ogni settimana, in particolare il venerdì, poi il giorno picco degli acquisti, viene offerto agli americani e non solo a loro, naturalmente, da comprare nelle librerie, nei cinema, nei negozi dischi e online. E tra i libri che questa settimana sono i prediletti degli americani, abbiamo scelto, ben classificato addirittura al quinto posto delle vendite della saggistica, questo signore qua, ovvero Mike Huckabee, ex candidato alla nomination repubblicana, e che ci dimostra che se i repubblicani in politica americana in questo momento non combinano granché, insomma sembrano abbastanza confusi, invece quanto a vendere libri sono bravissimi, perché al primo posto della classifica di questa settimana c'è naturalmente Sarah Palin con il suo esplosivo Going Rogue, che stravince le vendite della settimana, e lo farà credo per diverse settimane a venire. Mike Huckabee appunto si piazza al quinto posto, preceduto peraltro dall'editorialista conservatore per antonomasia, ovvero Glenn Beck, che con il suo Arguing with Idiots, ovvero discutendo con gli idioti, continua a essere al quarto posto. Vi segnalo anche il secondo posto, il successo di vendite che negli Stati Uniti sta avendo la autobiografia di André Agassi, che si chiama Open. I'm Martin Strel, I'm going to do what no man has ever done. Cinema, sentiamo un attimo. For swimming, this, me, terrible. Lo slogan di questo film, il cui trailer state ascoltando in sottofondo, è che per tempi complicati si ha bisogno di eroi complicati. E nella fattispecie un documentarista franco-canadese, John Maringuen, ne ha trovato uno veramente particolare. Il soggetto in questione, la cui voce sentivate poco fa, si chiama Martin Strel. È uno sloveno che con la sua impersonificazione, la sua enorme figura, decisamente sovrappeso, il suo faccione con una barba incolta, ha dato anche il titolo al film, Big River Man, il grande uomo del fiume. Perché? Perché questo Strel nuota ovunque e comunque, nuota nei grandi fiumi, li percorre dalla sorgente fino a quando arrivano al loro delta, ha nuotato per tutto il Mississippi e pensate un po', ha nuotato fregandosene dei coccodrilli per tutto il rio delle Amazzoni, e questo film è la testimonianza di queste sue imprese un po' assurde, anche perché a chi gli chiede perché lo fa, e lui risponde in realtà di non saperlo esattamente, lo fa perché lo fa, no? La famosa storia che conta più il viaggio del dove si arriva, una vicenda umana di un eroe, come dicevamo, sovrappeso, anzi decisamente obeso, che nuota 5, 6, 8, 10 ore al giorno e poi si beve due bottiglie di vino che sarebbe piaciuta molto a Werner Herzog e sta piacendo molto agli americani, naturalmente ai cinefil, quelli del cinema de sé. I can't feel it. Shouldn't I be able to feel it? Sam's dead. Per gli altri, per l'America più grande, per l'America che vuole sentimenti, storie forti, storie a cui partecipare, come dire, è facile, no? Perché ci si commuove, si pensa, si ragiona e si discute, esce questo Brothers, è una firma illustre, quella di Jim Sheridan, un eccellente regista, e porta in campo un tema che mai come oggi sta invadendo il cinema americano serio, ovvero la guerra e soprattutto anche il dopoguerra, ovvero il ritorno dalla guerra. Storia di due fratelli, uno dei quali sembra essere scomparso in Afghanistan, ma poi si rifà vivo allorché l'altro fratello ha cominciato a provvedere alla sua famiglia, soprattutto un film di recitazione con due star, giovani star del cinema americano come Jake Gyllenhaal e Tobey Maguire, e una onnipresente Natalie Portman, in questo caso molto presa in un difficile ruolo, no? di moglie di uno, forse due uomini, si piange, si ragiona e naturalmente si continua a portare in primo piano quello che sta diventando anche un tema del mondo dello spettacolo, appunto la guerra. I dreamed a dream in time gone by. was high and life worth living. E questa signora, signorina, scusi, qua invece ha il sogno, lo ha vissuto davvero, come canta nella sua canzone. Susan Boyle ha esordito nelle classifiche di vendita americane vendendo 701.000 copie. Non l'aveva mai fatto nessuna debuttante femminile prima, non l'aveva fatto quest'anno Eminem, non l'avevano saputo fare gli U2. Non, per avere dati di questo numero, di questa portata, bisogna risalire agli anni 90. Il disco di Susan Boyle sta facendo impazzire gli americani e tutto il resto del mondo, e per di più non viene neanche acquistato online scaricando le canzoni, viene proprio acquistato il CD, perché la gente lo vuole, se lo vuole portare a casa, lo vuole consumare, vuole fare un oggetto della propria vita. Su tutto ciò bisogna un po' ragionare, perché è come se al cinema il cinema fosse finito e al posto dei film oggi si proiettassero dei reality show. Ecco, nella musica sta succedendo esattamente questo, perché un talent show come quello che ha lanciato Susan Boyle ha la capacità oggi di mandare in orbita, nel giro di pochi mesi, al primo posto delle classifiche americane, rompendo record di ogni genere, un personaggio improbabile come la 48enne, no, casalinga un po' zitella scozzese. Questo sta accadendo anche in Italia. Si diceva che il mondo della musica era finito, che il mondo del rock ormai era sepolto. Si è trovata una via di uscita attorno alla natura, no, ai meccanismi di questa via di uscita. Susan Boyle ci perdoni, forse qualche ragionamento in più andrebbe fatto, magari lo faremo. E qui invece a Buongiorno America, anche noi sogniamo un sogno, il sogno di un weekend che voi tutti avete davanti e noi condivideremo con voi. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrero, in regia Valerio Rocchetti, a Roma Roberto Scaltritti, a Milano la mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook si chiama redazione Jefferson 3. Andiamo in replica dopo mezzanotte e invece ci sentiamo dopo il weekend, lunedì attorno all'1:30 da Radio 24. State tutti bene.